La peste scarlatta di Jack London, quinta puntata. Rifugiai in un bel boschetto dove non era morto nessuno. Nonostante fossi disperato, convinto che il morbo mi avrebbe ghermito da un momento all'altro, in quei 2 giorni riposai e recuperai le forze. E lo stesso accadde al pony. Il terzo giorno, caricata in groppa al cavallo la piccola provvista di cibo in scatola che possedevo, mi rimisi in viaggio attraverso una regione disabitata. Non incontrai anima viva, uomo, donna o bambino che fosse, benché vi fossero cadaveri ovunque. Il cibo in ogni modo abbondava. Il paese a quell'epoca non era come adesso, era ricco di aree coltivate, privo di foreste. La terra dava nutrimento per milioni di persone, ve n'era in tale abbondanza che molto andava sprecato. Negli orti e nei frutteti raccolsi verdura e frutta. Nelle fattorie abbandonate mi procurai uova e galline e spesso nelle dispense trovai provviste di cibo in scatola. Fu strano quello che accadde a tutti gli animali domestici. Ovunque diventarono selvaggi e predatori. Le galline e le anatre furono le prime a essere sterminate, mentre i maiali furono i primi a inselvatichire, presto seguiti dai gatti. Nemmeno i cani tardarono ad adattarsi alle mutate condizioni. Anzi, di questi ultimi vi fu una vera invasione. Divoravano i cadaveri, latravano e ululavano durante la notte e di giorno si aggiravano furtivi in lontananza. Con il passare del tempo notai un cambiamento nel loro comportamento. Sulle prime si tenevano isolati, diffidenti e inclini a battersi, ma in breve tempo cominciarono a radunarsi in branchi. Dovete sapere che i cani sono sempre stati animali sociali, e questo ancor prima che fossero addomesticati dall'uomo. Negli ultimi giorni del mondo, prima del morbo, ce n'erano moltissimi e di molte razze diverse. Cani col pelo corto e cani con una calda pelliccia, e cani tanto piccoli che avrebbero potuto essere divorati in un sol boccone da altri che avevano la taglia di un coguaro. Ebbene, tutti i cani più piccoli e più deboli furono uccisi dai loro simili più grandi. Inoltre, anche quelli di grosse dimensioni non erano adatti alla vita selvaggia. Di conseguenza, molte razze di cani scomparvero e rimasero soltanto, radunati in branchi, i cani di media taglia, simili ai lupi, che conoscete oggi. «I gatti», interruppe Ho-Ho, «non vivono in branco, nonno». «I gatti non sono mai stati animali sociali. Come affermò uno scrittore del XIX secolo, il gatto vive solo. Ha sempre vissuto solo, sia prima di essere addomesticato dall'uomo, sia durante il lunghissimo periodo di convivenza con l'umanità, sino a oggi, in cui è diventato nuovamente selvaggio. Anche i cavalli selvatichirono e tutte le belle razze che avevamo finirono per degenerare nel Mustang di piccola taglia che conosciamo oggi. Lo stesso accadde alle vacche, ai piccioni e alle pecore. E voi stessi sapete che alcune galline sopravvissero, ma le galline selvatiche di oggi sono creature molto diverse da quelle che esistevano a quell'epoca. Comunque, devo continuare la mia storia. Viaggiai attraverso una terra desolata. Con il trascorrere del tempo cominciai a desiderare sempre più la compagnia degli esseri umani. Però non ne incontrai mai nessuno e così mi sentii sempre più solo. Attraversai la valle di Livermore e la montagna che la separano dalla vallata di San Joaquin. Voi non avete mai visto quella vallata, però è vastissima, abitata dai cavalli selvaggi. Ce ne sono grandi mandrie, di migliaia e decine di migliaia di capi. Lo so perché l'ho visitata di nuovo 30 anni fa. Voi credete che qua giù, nelle valli costiere, ci siano molti cavalli selvaggi, ma sono nulla rispetto a quelli del San Joaquin. Strano a dirsi, le vacche, ridiventate selvagge, si stabilirono sulle colline. Evidentemente erano in grado di proteggersi meglio lassù. Nelle campagne i saccheggiatori non avevano infuriato come nelle grandi città, perché trovai molti villaggi e molte cittadine in cui non era stato appiccato il fuoco. Tuttavia, vidi dappertutto cadaveri putrescenti, perciò passai oltre senza esplorarli. Fu nei pressi di Latrobe che, spinto dalla solitudine, adottai una coppia di colli, liberi da così poco tempo che furono dispostissimi a rinnovare la loro alleanza con l'uomo. Quei colli mi accompagnarono per molti anni e i loro discendenti sono fra gli stessi cani che voi ragazzi avete oggi. Ma in 60 anni la razza Collie è scomparsa. Queste belve sono più lupi addomesticati che altro. Alzandosi, l'abbro leporino si accertò con un'occhiata che le capre non fossero minacciate. Poi osservò la posizione del sole nel cielo pomeridiano, manifestando l'impazienza che suscitava in lui la prolissità del racconto del vecchio. Esortato da Edwin a raccontare più speditamente, il nonno continuò la narrazione. Non c'è molto altro da dire. Con i miei due cani e il mio pony, montando un altro cavallo che nel frattempo ero riuscito a catturare, attraversai il San Joaquin e giunsi in una valle meravigliosa sulla sierra, chiamata Yosemite. Nel grande albergo che c'era lassù trovai una provvista prodigiosa di cibo in scatola. Il pascolo era abbondante, come pure la selvaggina, e nel fiume che attraversava la valle non mancavano certo le trote. Rimasi là 3 anni in una solitudine così assoluta che nessuno, tranne chi ha vissuto in una società altamente civilizzata, riuscirebbe a comprendere. Ma a un certo punto non potei più sopportarla. Mi resi conto che stavo per impazzire. Come i cani, ero un animale sociale e avevo bisogno dei miei simili. Giacché ero sopravvissuto al morbo, pensai che esistesse la possibilità che vi fossero altri superstiti. Inoltre, pensai che dopo 3 anni i germi del morbo fossero scomparsi e che il paese si fosse purificato. Così con il mio cavallo, i cani e il pony mi rimisi in viaggio. Attraversai di nuovo la vallata del San Joaquin e le montagne per ridiscendere nella valle di Livermore. Il cambiamento avvenuto nel corso di quei 3 anni era sbalorditivo. Stentai a riconoscere le campagne che erano state splendidamente coltivate, perché un mare di vegetazione lussureggiante le aveva sommerse. I campi, gli orti e i frutteti erano sempre stati curati dalla mano dell'uomo, perciò si erano indeboliti. Ma la vegetazione selvaggia, al contrario, era sempre stata combattuta, perciò si era irrobustita. Di conseguenza, allorché l'intervento dell'uomo era cessato, la vegetazione selvaggia aveva soffocato e distrutto praticamente tutte le piante coltivate. I coyote erano aumentati enormemente di numero e fu allora che incontrai per la prima volta i lupi che vagavano a coppie o a gruppi di 3 o a piccoli branchi, dopo essere discesi dalle zone in cui erano sempre sopravvissuti. Fu al lago Temascal, non lontano da quella che un tempo era stata la città di Oakland, che incontrai il primo essere umano ancora vivo. Oh, nipoti miei, come posso descrivervi l'emozione che provai quando in sella al mio cavallo, mentre scendevo il versante di una collina verso il lago, vidi levarsi tra gli alberi un filo di fumo che indicava il fuoco di un bivacco. Il mio cuore cessò quasi di battere, mi parve di impazzire. Poi udii il pianto di un bambino, alcuni cani abbaiarono e i miei cani risposero. Ignoravo di non essere l'unico essere umano sopravvissuto in tutto il mondo. Il fumo e il pianto di un bambino mi suggerivano che era così, ma poteva mai essere vero? Giunto alla sponda del lago, là, dinanzi ai miei occhi, a meno di 100 metri di distanza, vidi un uomo grande e grosso che se ne stava in piedi sopra una roccia sporgente a pescare. Rimasi senza fiato. Cercai di chiamare senza però riuscirvi. Allora agitai una mano. L'uomo sembrò guardarvi, ma non parve rispondere al mio cenno. Rimanendo in sella, nascosi la testa fra le braccia. Avevo paura di guardare perché ero certo che si trattasse di un'allucinazione e che dunque, se avessi guardato ancora, l'uomo non ci sarebbe stato più. E quell'allucinazione mi era tanto preziosa che volevo che durasse ancora un poco. Sapevo inoltre che finché non avessi sollevato lo sguardo, sarebbe durata. Così rimasi, dunque, sino a quando udii i miei cani ringhiare e poi una voce umana. Che cosa credete che abbia detto quell'uomo, nipoti miei? Ebbene, ve lo dirò. Da dove diavolo vieni? Queste furono le parole esatte. Ecco ciò che tuo nonno, Labbro Leporino, mi disse quando mi accolse là sulla riva del lago Temascal 57 anni fa. E furono le parole più ineffabilmente piacevoli che abbia mai udito. Aprii gli occhi e vidi là, dinanzi a me, un uomo grande e grosso, bruno e villoso, con la fronte sfuggente, gli occhi feroci, la mandibola solida e grossa. Non so come smontai da cavallo. Mi accorsi soltanto d'improvviso che gli stavo stringendo una mano fra le mie, piangendo. L'avrei abbracciato, ma era scontroso, diffidente, perciò si ritrasse. Nondimeno rimasi aggrappato alla sua mano, sempre piangendo. Al ricordo, la voce del vecchio si spezzò e parve spegnersi. Alla vista delle lacrime di commozione che gli scorrevano sulle guance, i ragazzi ridacchiarono, ma in breve il vecchio riprese a raccontare. Sì. Piansi e provai il desiderio di abbracciarlo, anche se autista era un bruto, un autentico bruto, l'uomo più odioso che abbia mai conosciuto. Il suo nome era strano, l'ho dimenticato. Tutti lo chiamavano autista, dal mestiere che aveva fatto prima dell'epidemia. Ecco perché ancora oggi la tribù da lui fondata è chiamata la tribù degli autisti. Era un uomo violento e iniquo. Non sono mai riuscito a capire perché il morbo lo abbia risparmiato. A dispetto di tutte le nostre antiche concezioni metafisiche sulla giustizia, sembrerebbe che non ne esista alcuna nell'universo. Perché autista sopravvisse? Dal punto di vista morale era un mostro, uno sfregio che sfigurava il volto della natura, nonché un ingannatore crudele, spietato e bestiale. Non sapeva parlare d'altro che di autovetture, congegni, carburante e rimesse, e soprattutto ricavava un particolare piacere nel riferire dei suoi furtarelli meschini e delle sue frodi sordide ai danni di coloro che gli avevano dato lavoro nei giorni che precedettero il contagio. Eppure fu risparmiato, mentre centinaia di milioni, anzi di miliardi di persone migliori di lui furono sterminate. Seguì al suo accampamento dove la vidi, Vesta, l'unica donna. Fu meraviglioso e commovente insieme. Lei era là, Vesta von Warden, la giovane moglie di John van Warden, vestita di stracci, con le mani deturpate dalle cicatrici e dai calli provocati dal lavoro, curva sopra un fuoco a faticare come una sguattera. Vesta, che per nascita apparteneva alla classe più potente e raffinata che la ricchezza avesse mai prodotto nel mondo. Suo marito, John Van Warden, proprietario di un patrimonio di 1 miliardo e 800 milioni di dollari, nonché presidente del Consiglio dei Magnati dell'Industria, era l'uomo a capo di tutta l'America. Inoltre, poiché aveva fatto parte del Consiglio di Controllo Internazionale, era uno dei 7 uomini che avevano in mano le sorti del mondo intero. E la stessa Vesta proveniva da una famiglia altrettanto illustre. Suo padre, Philip Saxon, era stato presidente del Consiglio dei Magnati dell'Industria fino alla morte. Tale carica era ormai diventata ereditaria e se Saxon avesse avuto un figlio, questi gli sarebbe succeduto. Ma la sua unica figlia era Vesta, il fiore perfetto di generazioni cresciuta nella cultura più squisita che questo pianeta avesse mai conosciuto. Soltanto quando era stato annunciato il fidanzamento tra Vesta e Van Warden, Saxon aveva designato quest'ultimo come proprio successore. E sono certo che era stato un matrimonio politico. Ho ragione di credere che Vesta non abbia mai realmente amato il marito con la folle passione di cui erano soliti cantare i poeti. Il loro matrimonio era piuttosto simile a quelli che avvenivano fra gli aristocratici, prima che venissero sostituiti dai magnati. E Vesta era là, a bollire zuppa di pesce in una pentola sporca di fuliggine, con i magnifici occhi arrossati dal fumo acre del fuoco. La sua era una storia triste. Era l'unica sopravvissuta su 1 milione di persone, proprio come me e come autista. Sopra una delle cime più alte della Alamanda Hills, che guardava la baia di San Francisco, Van Warden aveva fatto costruire una vasta residenza estiva, circondata da un parco di 1.000 acri. Quando il morbo aveva cominciato a infuriare, Van Warden aveva mandato Vesta lassù. I confini del parco erano pattugliati da guardie armate. E nessun cibo, nulla, neppure la posta veniva introdotto senza essere prima sottoposto a un procedimento di disinfezione. E nondimeno il morbo era filtrato, uccidendo senza distinzione le guardie e la servitù e annientando la moltitudine di seguaci e dipendenti, o almeno di tutti coloro che non erano fuggiti per morire altrove. Così Vesta si era ritrovata a essere la sola sopravvissuta nel palazzo, trasformato in un obitorio. Ebbene, Autista era uno dei servi che erano scappati. 2 mesi più tardi, ritornando alla dimora, aveva trovato Vesta in un piccolo padiglione estivo, dove aveva scelto di stabilirsi, perché là nessuno era caduto vittima del morbo. Autista era un bruto e Vesta, spaventata, era scappata a nascondersi nel bosco. Quella notte era fuggita a piedi, sulle montagne, nonostante il suo corpo delicato e i suoi piedi morbidi fossero sconosciute le scoriazioni prodotte dai sassi e i graffi dei rovi. Autista l'aveva inseguita, l'aveva raggiunta e infine l'aveva picchiata, capite? L'aveva picchiata con la forza dei suoi pugni, facendola sua schiava. L'aveva costretta a raccogliere la legna, ad accendere il fuoco, a cucinare, a fare tutti i lavori più degradanti. Lei, che in tutta la sua vita non aveva mai compiuto una sola opera servile, era stata obbligata a fare tutto ciò, mentre lui, autentico selvaggio, preferiva starsene a guardare, oziando. Non faceva nulla, assolutamente nulla, se non cacciare di quando in quando per procacciare la carne oppure pescare. Buon per Autista, commentò Labbro Leporino sottovoce, rivolto agli altri ragazzi. Ricordo com'era prima che morisse, era un tipo strabiliante, sapeva fare un sacco di cose e sapeva farsi ubbidire. Sapete, papà sposò sua figlia e avreste dovuto vedere come il vecchio lo dominava. Autista era proprio un furfante. Noi bambini gli stavamo alla larga, ci spaventava. Persino mentre stava crepando, una volta prese quel lungo bastone che teneva sempre accanto e si allungò a colpirmi, spaccandomi la testa. Al ricordo si masseggiò il cranio rotondo e duro. Poi tutti e tre i ragazzi ripresero ad ascoltare il vecchio che continuava a raccontare estaticamente di Vesta, la schiava del fondatore della tribù degli autisti. E così vi assicuro che non potete capire quanto fosse terribile la situazione. Autista era un servo, capite? Un servo. E aveva sempre chinato umilmente la testa dinanzi alle persone del rango di Vesta. Per nascita e per matrimonio lei apparteneva alla classe dominante. Aveva portato nel palmo della sua mano rosea il destino di milioni di persone come lui. E nei giorni che avevano preceduto l'avvento del morbo, avrebbe considerato una contaminazione, una profanazione il più lieve contatto con un individuo del genere. Oh, io lo sapevo perché avevo assistito a qualcosa di simile. Una volta, ricordo, la signora Goldwyn, moglie di uno dei grandi magnati, si trovava su una piattaforma d'imbarco, in procinto di salire a bordo del suo dirigibile privato, quando le cadde il parasole. Un servo lo raccolse e commise l'errore di porgerglielo a lei, una delle più potenti nobildonne del paese. La signora Goldwyn indietreggiò come se il servo fosse stato un lebbroso e con un cenno ordinò alla sua segretaria di prendere il parasole. Inoltre le comandò di appurare l'identità di costui e di provvedere affinché fosse licenziato immediatamente. Vesta Van Warden era una donna che apparteneva alla stessa classe e Autista la picchiò e la rese schiava. E Bill, ah ecco Bill, l'autista, era questo il suo nome. Era un uomo spregevole, primitivo e del tutto privo degli istinti migliori e degli impulsi cavallereschi di un'anima colta e raffinata. No, non esiste assolutamente nessuna giustizia, perché fu in suo potere che cadde la più meravigliosa fra le donne, Vesta Van Warden. Non comprenderete mai, nipoti miei, l'atrocità di tutto ciò, perché voi stessi siete piccoli, selvaggi e primitivi, ignari di tutto ciò che non è selvaggio. Perché Vesta non avrebbe dovuto essere mia? Io ero un uomo fine e dotto. Ero stato professore in una grande università. Non di meno, nell'epoca che aveva preceduto l'epidemia, Vesta era stata di rango talmente elevato che non si sarebbe degnata neppure di accorgersi della mia esistenza. Pensate dunque alla degradazione abissale nella quale sprofondò per mano di autista. Niente di meno che lo sterminio dell'umanità mi aveva dato la possibilità di conoscerla, di guardarla negli occhi, di conversare con lei, di toccarle la mano e sì, di amarla, e di sapere che i suoi sentimenti nei miei confronti erano di grande tenerezza. Ho ragione di credere che lei, persino lei, avrebbe potuto amarmi quando non esisteva nessun altro uomo al mondo tranne Autista. Perché mai, dopo aver ucciso 8 miliardi di anime, il morbo non ammazzò ancora un altro uomo, uno solo, vale a dire Autista? Una volta, quando Autista si era allontanato per pescare, Vesta mi implorò di ucciderlo. Con le lacrime agli occhi mi scongiurò di farlo, ma lui era un uomo forte e violento e io avevo paura. In seguito parlai con lui. Gli offrii il mio cavallo, il mio pony, i miei cani e tutto quello che possedevo affinché mi cedesse Vesta. E lui, ridendomi in faccia, scosse la testa. Fu molto insolente. Rispose che ai vecchi tempi era stato un servo, polvere sotto i piedi di uomini come me, di donne come Vesta, ma che ormai aveva la più grande ama del paese come sua serva, affinché gli cucinasse il cibo e accudisse i suoi marmocchi. Tu hai avuto il tuo momento prima del morbo, disse, ma adesso è arrivato il mio, ed è un momento dannatamente bello, non cambierei con i vecchi tempi per nulla al mondo. Disse qualcosa di simile, anche se non furono queste le parole esatte, perché era un uomo volgare, turpe, dalle cui labbra uscivano continuamente imprecazioni oscene. Inoltre, mi disse che se mi avesse sorpreso a fare gli occhi dolci alla sua donna, avrebbe torto il collo a me e avrebbe picchiato lei. Che cosa dovevo fare? Avevo paura. Autista era un selvaggio. Quella notte, Vesta e io parlammo a lungo del mondo che era scomparso. Parlammo d'arte, di libri, di poesia, e Autista ascoltò, sorrise e ci schernì. Infine, annoiato e seccato dai nostri discorsi, che non capiva, intervenne dicendo: E così questa è Vesta Van Varden. Un tempo moglie di Van Varden, il magnate, bellezza ricca e sprezzante, e adesso è la mia schiava. Come sono cambiati i tempi, professor Smith? Come sono cambiati? Ehi tu, donna, toglimi i mocassini, sbrigati. Voglio che il professor Smith veda come ti ho addestrata bene. Allora vidi Vesta serrare i denti e vidi anche la fiamma della ribellione accendersi sul suo volto. Ma Autista sollevò il pugno nodoso per colpire e io provai paura e strazio nel cuore. Non potevo far nulla, non ero in grado di affrontarlo e di sottometterlo. Così mi alzai per andarmene, per non dover assistere a una tale indegnità. Ma Autista rise, minacciò di picchiare anche a me se non fossi rimasto a guardare. Allora fui obbligato a sedere di nuovo presso il fuoco sulla riva del lago Temascal e vidi Vesta. Vesta Van Varder, inginocchiarsi, togliere i mocassini a quell'uomo brutale, scimmiesco, villoso, che sorrideva. Oh, voi non capite, nipoti miei, non avete mai conosciuto altro, voi non capite. Domata alla perfezione, commentò Autista, con la massima soddisfazione, mentre Vesta eseguiva quel compito sgradevole e avvilente. Talvolta è un po' riottosa, professore, un po' riottosa, ma un pugno in faccia la rende mite e docile come un'agnellina. In un'altra occasione Autista disse: Dobbiamo cominciare da capo, ripopolare la terra e moltiplicarci. Tu sei svantaggiato, professore, perché non hai moglie, quindi ci troviamo nella vera e propria situazione del giardino dell'Eden. Ma io non sono orgoglioso, perciò ti dirò che cosa faremo, professore. Indicò la figlioletta che Vesta gli aveva dato di appena un anno. Ecco, quella è tua moglie, anche se dovrai aspettare che cresca. Non è divertente? Siamo tutti uguali qui, e io sono il rospo più grosso dello stagno, ma non sono altezzoso io, niente affatto. Perciò ti faccio l'onore, professor Smith, il grandissimo onore di darti in matrimonio la figlia mia e di Vesta Van Varden. Non è un maledetto peccato che Van Varden non sia qui a vedere? Thank you.